Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Beh, buon Natale innanzitutto a tutti. Il mercato è il dono. Questo è il libro di cui parliamo questa sera e l'autore è Luigino Bruni. Buonasera, professor Bruni. Buonasera. Luigino Bruni è professore ordinario alla LUMS, all'Università di Roma, insegna microeconomia e storia del pensiero economico, è direttore scientifico della Scuola di Economia Civile e ha scritto questo libro, edito dall'Università Bocconi Editore, dedicato appunto al mercato e al dono. Il sottotitolo è Gli spiriti del capitalismo e sembra riecheggiare il famoso libro di Max Weber sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo. E già in questo sottotitolo c'è un po' la visione di Luigino Bruni sul capitalismo proprio legata al mercato e al dono. C'è questa critica verso Max Weber, Luigino Bruni? Sì, più che una critica è appunto culturale, significa che sono molti gli sfidi del capitalismo. Io nel libro costruisco un po' il dibattito attorno alla riforma, alla controriforma, diciamo, protestante e cattolica, per vedere che come c'è uno spirito del capitalismo di matrice più anglosassone, protestante, calvinista, c'è sempre stato e c'è ancora oggi uno spirito del capitalismo più comunitario, cattolico, europeo, che purtroppo negli ultimi decenni si sta appiattendo molto sull'unico spirito del capitalismo di tipo americano. Quindi io cerco di raccontare un'altra storia che mette in luce le caratteristiche del modello italiano di economia e di società, cioè dove l'individuo non è il protagonista principale della storia, c'è la comunità, ci sono le relazioni, ci sono le cooperative, le imprese sociali, ci sono molte altre realtà che convivono insieme alle istituzioni più del capitalismo anglosassone. Quindi questo plurale è proprio un raccontare che l'anima, che lo spirito del capitalismo europeo oggi si sta perdendo, anche perché segue e imita troppo uno spirito anglosassone che sta occupando le imprese, il mercato, le banche, la finanza, e quindi perdendo identità si perde anche qualità economica e qualità sociale. Ecco, in questa prospettiva lo spirito, diciamo, più italiano è uno spirito che si ritrova sia nelle realizzazioni pratiche, in fondo sono stati i francescani i primi a creare delle organizzazioni come i Monti di Pietà, sia nelle elaborazioni teoriche. Ci sono stati gli economisti italiani, soprattutto del Settecento, e lei li ricorda nel libro, che hanno teorizzato questa economia diversa, appunto, che viene chiamata l'economia civile. Come possiamo riassumerla questa prospettiva, Luigino Bruni? Ma innanzitutto con l'idea che l'economia è un pezzo di vita, è un pezzo di società civile, tanto che lo scopo dell'economia per questi economisti italiani è la felicità pubblica e non solo la felicità individuale. E quindi c'è un interesse diretto ai temi come la fiducia. In fondo questi economisti hanno sviluppato una teoria del capitale sociale, cioè del capitale fatto di virtù civili, ben prima del Novecento. Cioè l'idea che senza fiducia un popolo non si sviluppa, che senza costruire virtù civili non c'è futuro. Quindi un'idea di economia che guarda direttamente alle dimensioni sociali e comunitarie. Secondo, un'economia che ancora è molto legata alla visione del bene comune. In fondo l'economia civile la possiamo definire come l'approdo della tradizione del bene comune nella modernità. E quindi questa idea che la dimensione interpersonale, la dimensione comunitaria non è una nevrosi dell'economia e del mercato, ma è la sua dimensione normale. Quindi se l'economia distrugge relazioni, distrugge comunità in nome del profitto e della rendita, evidentemente l'economia diventa diseconomia. Quindi c'è un'anima latina, cattolica, comunitaria, che poi è quella che ha dato vita al movimento cooperativo, che ha dato vita e dà vita oggi all'economia sociale e civile italiana, che è tra le cose più belle che abbiamo prodotto in questi ultimi secoli. E l'idea che della comunità, intesa in senso ampio e non comunitarista, che diventa economia. Quindi queste dimensioni che vengono sempre viste come attriti, vengono viste come delle anomalie del sistema italiano, cioè questo intreccio tra famiglia, tra impresa, comunità, eccetera, in realtà io faccio vedere nel mio libro che non sono altro che questo spirito del capitalismo, che non è lo spirito calvinista del modello anglosassone. Ecco, e che non è nemmeno un guardare al bene comune come solamente a qualcosa di interesse pubblico, qualcosa che dipende appunto dalla volontà dello Stato di mettere maggiore equilibrio, maggiore equità se vogliamo, maggiore efficienza della società, uno Stato in fondo a cui vengono delegate delle competenze anche a livello appunto sociale. C'è una economia che nasce dal basso più che nascere dall'alto. Assolutamente, il bene comune va inteso, come sappiamo, il bene di tutti e di ciascuno, cioè non è l'altruismo. c'è il bene comune e la reciprocità, cioè il mutuo vantaggio, diceva Genovese, la mutua assistenza. Quindi quando il bene comune prende il primo posto, significa che io quando penso ad arricchirmi, penso anche all'arricchimento degli altri. Quindi non è né egoismo né altruismo, è una zona, ecco perché non si capisce la teoria economica. Il bene comune è una categoria che dice non si può crescere da soli, non si può essere felici senza includere gli altri. Quindi questa dimensione inclusiva di bene comune inteso, ripeto, come una dimensione di legame sociale è fondamentale e non è la filantropia che invece è il modello anglosassone. Quindi il modello italiano è un modello che ha cercato di dire negli anni migliori l'incivilimento è una crescita armonica e equilibrata dove si dà molta attenzione al tema della disuguaglianza, all'inclusione degli esclusi. Questo modello si è perso per strada negli ultimi 50 anni perché abbiamo troppo guardato a paradigmi che venivano dall'estero, e se oggi l'Italia vuole ritrovare un suo protagonismo anche economico deve ripartire da questa sua antica tradizione, non deve più imitare queste mode aziendalistiche, queste ideologie neomanageriali che stanno occupando tutte le imprese, ma deve cercare, e lo sta già facendo in alcuni luoghi, di partire dalle sue radici e prendere il volo. Ecco, in questo senso c'è nelle ultime pagine del libro un paragone e un esempio che sinceramente mi sembra un po' temerario, cioè il fatto che queste nuove tecnologie, ne parliamo molto, di Google, di Facebook, di WhatsApp, di Skype, che sono entrate prepotentemente nella vita quotidiana, potrebbero essere un esempio di una nuova logica di gratuità, di condivisione, molto più che in passato. Ecco perché dico temerario, perché anche queste tecnologie hanno una loro logica commerciale, una logica legata al profitto. In fondo sono le aziende che hanno fatto i maggiori profitti negli ultimi anni e che sono cresciute di più a livello borsistico. Però forse è vero che a livello individuale danno la possibilità di una maggiore gratuità dei rapporti interpersonali, professor Bruni. Ma questo è appunto, c'è un'ambivalenza in tutto questo mondo dei social, perché da un certo punto di vista è indiscutibile che hanno reso più semplice e più immediata l'azione collettiva, mettendo insieme persone che non si sarebbero mai incontrate prima in piazza, nella piazza reale, per azioni, per campagne, per proteste, per dar voce a chi non ha voce. Quindi sicuramente Facebook oggi io lo uso tantissimo, ad esempio per le mie campagne contro l'azzardo dintorni e tanti altri. D'altra parte dobbiamo essere coscienti che noi abbiamo affidato la gestione dei nostri rapporti, della nostra intimità, della nostra vita pubblica ad aziende for profit, cioè che non sono, come dire, normalmente le relazioni avvenivano nelle piazze, che erano dei beni pubblici e di gratuità. Ora le relazioni si svolgono in luoghi gestiti da multinazionali, che sono dei colossi e che quindi possono anche muovere in base ai loro interessi, che devono fare ovviamente, anche la forma e i modi con cui noi ci rapportiamo fra di noi. Quindi dovremmo essere più coscienti che questi grandi colossi non sono mossi da gratuità, ma sono mossi da profitto. Poi possono anche produrre come effetto non intenzionale gratuità, perché la vita, certo, è più grande delle intenzioni che abbiamo. Però almeno ogni tanto, almeno noi studiosi, dovremmo ricordare che il movente che è dietro ciò che appare come gratuità è più complesso e forse anche un po' ambivalente. Ecco, in questa prospettiva possiamo pensare anche di fronte a una crisi economica, quella che è la crisi economica più forte che abbiamo avuto non solo in questo secolo, ma dal 1929 ad oggi, che questa prospettiva appunto del dono della gratuità, di un mercato più aperto, in cui non tutto è mosso dal profitto, anche se il profitto è comunque necessario, possa essere anche una soluzione per una crisi così forte? Ma diciamo è una soluzione insieme a molte altre. Sicuramente rimettere la dimensione della gratuità e della relazione al centro del mercato, non come il limoncello che si mette a fine alla fine della scena come un di più, ma come una dimensione costitutiva, secondo me può avere un ruolo importante, e ce l'ha già, perché significa riattivare quell'energia non rinnovabile, fondamentale delle persone, che è il codice simbolico che hanno dentro. Non si fanno nuove imprese solo per i profitti. Se si fanno solo per i profitti, le imprese nascono male. Gli esseri umani nelle imprese ci mettono i loro sogni, le loro potenzialità, la voglia di vivere, di futuro. E quindi quando noi riusciamo a rimettere dentro l'economia tutta la nostra gamma motivazionale, dal profitto fino alla stima, al rispetto, all'autostima, allora l'economia prende forza, perché l'economia vive, si nutre dell'humus che è la vita della gente. Ecco, possiamo dire per concludere, professor Bruni, siamo in un clima natalizio, siamo in un clima di dono, che forse un dono utile potrebbe essere il suo libro, Il mercato è il dono. Non è molto gratuità, ma va bene, cioè, può essere un modo per riflettere sul dono, perché io, come dico all'inizio del libro, il dono è una cosa molto seria, non è il regalo, anche se i regali possono essere questione di dono. È ciò che fonda le comunità, che fonda la civiltà. Basta pensare che il simbolo del dono dell'Occidente è un crocifisso, quindi tutto perché romanticismo è un crocifisso, ed è anche un bambino che ha l'immagine della gratuità per eccellenza. Penso che uno dei momenti più belli dell'universo è quando, come diceva una mia amica levatrice ostetrica, quando si disimpegnano le spalle del bambino che esce dal seno materno. Quindi il dono è tutte queste cose insieme, è la vita, ed è, ripeto, ciò che fonda le comunità e che fonda la nostra vita in comune. Una speranza, appunto, che ogni vita nuova sia un richiamo al fatto, appunto, del dono che c'è come elemento semplice ma importantissimo nella società. Grazie, professor Bruni, buon Natale anche a lei, buon Natale ai nostri ascoltatori. Abbiamo parlato del libro Il mercato è il dono, appunto, di Luigino Bruni, Gli spiriti del capitalismo, edito da Università Bocconi Editrice. Buon Natale anche a Carmelo Lauricello in regia, a Luca Cremonese in redazione, a tutti quanti ci ascoltano. L'appuntamento comunque è per settimana prossima, sabato sera. Buonasera.